E la compagnia di bandiera, adesso noi andremo avanti con questa compagine di azionisti, ma questo l'ho fatto in risposta all'Europa e a chi dice aiuto di Stato o meno. Attenzione, perché se stanno a zignare, allora potremmo anche prendere una decisione per cui Alitalia potrebbe tranquillamente essere acquistata dallo Stato, dalle ferrovie dello Stato. È una minaccia, non è una decisione. La decisione è andiamo avanti con la compagine di azionisti privati. Ma però veramente non ci vengano sempre a dire, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa che ci aiuti e non che metta difficoltà a chi governa.